Benvenute, benvenuti a tutti, a tutto, e grazie di essere così numerosi anche in questa domenica di fine estate che non è finita dalla temperatura che si sente. E io ho cercato di pensare un po' quali potrebbero essere sia le condizioni, le regole dell'assemblea minimamente e anche un po' le tracce di partenza. E insieme un po' alle persone che parteciperanno e che danno l'abbrivio a questa assemblea, però chiaramente, insomma, essendo un'assemblea, poi le regole si costruiscono insieme. Molte delle persone che stanno qui sono abituate a fare delle assemblee, a fare delle assemblee in cui si discutono temi scolastici e soprattutto, appunto, anche attraverso l'assemblea a praticare la democrazia. Quindi in realtà, come dire, tutti quanti penso che poi riusciamo a curare questo tempo insieme. Il tempo non è molto perché sono adesso le 16:40, più o meno le bambine e i bambini arriveranno nell'assemblea alle 18:40, quindi sono 2 ore, e siccome siamo molti e chiaramente piacerebbe a tutti che ci fossero molti interventi, anche che ci fosse la possibilità di seguire o di intervenire, abbiamo pensato che forse il tempo di ogni intervento potrebbe essere di 3-4 minuti. Sono 2 ore divisi per 3-4 minuti, sono circa 30 interventi, insomma, che sono molti ma non sono tantissimi, noi siamo anche qui di più. Ci sono un paio di persone che mi aiutano sia a tenere il tempo e gli interventi. Michele mi aiuta a tenere il tempo e darà appena prima della fine dell'intervento un minuto, diciamo, per avviarsi verso la conclusione, e Pietro invece mi aiuta, insomma, gestisce la presa di parola e il giro delle parole. E non c'è molto altro da dire, insomma, io farei una piccola introduzione di tracce. Abbiamo detto un'assemblea sulla scuola democratica e abbiamo messo queste 3 parole come parole chiave: popolare, democratica, sperimentale. Sono delle parole che sembrano strane, addirittura, appunto, controcorrente in questo contesto che sentiamo tutti i giorni, di una scuola invece spesso reazionaria, inerziale, classista, selettiva, gentiliana. Insomma, i venti neri sulla scuola anche in questo inizio di anno scolastico ci sembra che stiano soffiando di nuovo molto potenti, e mentre per molte persone dire popolare, democratica, sperimentale è l'acqua in cui nuotiamo, che comunque in cui vorremmo nuotare tutti i giorni, e tutti i giorni, e spesso, insomma, pratichiamo nelle nostre classi, nei nostri contesti educativi tutto questo. E le persone che sono state coinvolte, diciamo, per dare l'abbrivio a questa discussione sono Rachmaninoff, Claudia Ricci, Giulia Dazzi, Cristiano Corsini e Lazio Zioli, Pietro Savastio. Ma insomma, è veramente un'assemblea, e qui ci sono profili diversi: sono educatrici, professori universitari, attivisti, maestre, docenti, ex docenti a vario titolo, anche semplicemente genitori, cittadini, eccetera, eccetera. E questo è anche, come dire, il senso: un'assemblea non per addetti ai lavori, ma un'assemblea per persone che in qualche modo ci tengono a dare vita alla scuola democratica. È un momento particolare anche per Roma. Molte delle realtà che qui sono rappresentate, o comunque ci sono delle persone attive in tanti contesti educativi, associazioni, scuole, comitati di genitori, in questo momento faticano molto a Roma a dare continuità, a dare vita e a coordinare, insomma, le varie realtà che cercano di curare le relazioni educative, soprattutto con persone con bambine, con bambini, con persone che non hanno quel diritto allo studio, che invece poi è il motivo centrale per cui noi spesso facciamo tutto questo. L'ultima cosa è che stiamo in un museo, insomma, è un museo magro, un museo del contemporaneo, e quindi molte delle persone anche che sono qui hanno a che fare con delle relazioni educative e delle attività educative che non riguardano soltanto dei contesti scolastici, ma riguardano anche dei contesti invece teatrali, artistici, eccetera, eccetera. E questa relazione, questo rapporto, questa porosità, insomma, era quello che ci aveva chiesto anche il Museo Magro, anche perché, appunto, questa è un'istituzione pubblica e era interessante fare questa cosa in un'istituzione pubblica e non semplicemente in uno spazio, diciamo, aperto la domenica pomeriggio. c'è un link in realtà che ho messo sul mio profilo Facebook, ma adesso lo scriverò se per caso c'è qualcuna di voi che è interessata a diffonderlo, a condividerlo con altre persone che vogliono intervenire, partecipare, ascoltare. Io mi metto a fare un po' un report in diretta delle cose che vengono dette, poi magari ci sarà invece un report scritto, perché mi sembra preziosa questa occasione e quindi è interessante poi avere anche un risultato, un esito di quello che ci diciamo. Vado a concludere. Queste sono delle prime tracce che con cui abbiamo provato a far partire questa discussione. La traccia principale è la democrazia dentro e fuori la scuola. È chiaro che appunto che il contesto dentro le nostre classi, dentro i nostri consigli di classe, dentro i nostri collegi docenti, dentro i nostri consigli di dipartimento, nei vari contesti scolastici, c'è un contesto in cui spesso vediamo messa in discussione quell'orizzonte democratico a cui invece teniamo, in cui spesso ci siamo formati, in cui siamo cresciuti, molti di noi si sono formati anche appunto in associazioni, in una militanza di scuola democratica. Quindi la militanza, la democrazia dentro la classe e dentro gli organi collegiali, in generale i contesti delle riunioni, contesti collettivi, contesti tra colleghi, ma anche la democrazia fuori dalla scuola, quindi in realtà tutto quello che non soltanto nei doposcuola, nelle scuole popolari, nelle scuole che stanno nei contesti educativi che stanno vicino, accanto, che cercano di recuperare, nelle associazioni che fanno il contrasto alla dispersione scolastica, in chi cerca di dare sostegno allo studio, vuol dire appunto provare a mettere una democrazia educativa anche fuori dalle mura scolastiche e non soltanto. Quindi l'idea è di lavorare su questo margine, anche in qualche modo vedendo se questo margine può essere valorizzato. Una delle intellettuali che più forse ci sta a cuore negli ultimi anni, ci sta a cuore, è Bell Hooks, e il suo elogio del margine come uno spazio politico vivo ci sembrava appunto un riferimento importante. Scendendo, chiaramente ci sono dei nodi: il nodo del volontariato, di chi appunto si occupa per esempio appunto di sostegno allo studio in varie associazioni, però quel volontariato è anche militanza, però l'impegno politico, l'impegno politico anche appunto dei partiti, dei sindacati, eccetera eccetera, però appunto anche il lavoro, il rapporto tra volontariato e il lavoro di educatori e l'attivismo. Poi c'è appunto tutta la mappatura di quello che avviene a Roma e anche fuori da Roma, dei doposcuola, delle scuole popolari. C'è Elena Zizzoli che insieme a un'altra serie di ricercatrici, di studiose, ha scritto un bellissimo libro importante sulle scuole popolari per Donzelli, che è uscito qualche mese fa, in cui fa non soltanto una mappatura ma una lunga riflessione. E poi chiaramente c'è la questione della riformazione, della ricerca, dell'università, il rapporto, il conflitto con le istituzioni, i decisori e i sindacati. E poi abbiamo messo quest'ultimo tema, che è lo spazio di parola, cioè chi prende parola, e il benessere, anche la salute mentale delle persone, degli studenti, delle studenti, che in questo momento poi sono e dovrebbero essere, sono i protagonisti, le protagoniste e i protagonisti della scuola. Quindi c'è tantissima carne al fuoco. Io mi metto a fare lo stenografo di questa cosa. Se ci sono però, appunto, aiutatemi anche in questo, magari se ci sono delle cose che vi sembrano particolarmente importanti, in modo che abbiamo poi qui una specie di plastico, di rappresentazione visiva di quello che sta accadendo. E comunque poi io passerò magari un foglio con le mail, perché è interessante poi che trovarsi e organizzare un'assemblea non è facile, visto che l'abbiamo fatta. Mi piacerebbe che fosse una puntata 1 e non una puntata 0, in cui ogni volta bisogna ricominciare da capo. Molti di noi stanno facendo questo lavoro da tanti anni, veramente, se non da molti decenni, e quindi molti di noi si conoscono, e l'importante è raccordarsi alle volte, non soltanto autorarrarsi, autorappresentarsi. Finisco e quindi passo la parola a chi magari appunto voleva prenderla da subito. Intanto presenterei le persone che in qualche modo erano parte dell'assemblea. Forse partirei da Elena Zizzoli, che racconta un po'. Zizzoli, perdonami, ecco, appunto. tanto per fortuna da adesso in qua sto zitto, quindi non faccio neanche errori. La professoressa Zizioli che lavora a Roma 3, che appunto ha fatto questo volume e che magari appunto ci dà un po' una chiave generale sulle ragioni di questo volume e anche sulle tracce fondamentali di quello che ha visto. Grazie ancora, grazie a tutti e buona assemblea. Lo so però se vuole partire il collega che ha fatto un altro volume molto interessante. No, allora, vabbè, a parte l'onore e l'onere di essere qui con voi, in realtà l'esperienza di cui noi lasciamo traccia in questo volume è un'esperienza che mappa, che parte dalla città di Roma come laboratorio privilegiato e mappa l'idea e mappa le realtà che insistono su Roma e che fanno scuola popolare. Non vi sto a raccontare il tutto perché non è interessante in questa assemblea, ma che perché vabbè, ringrazio il Cristian Raimo di avermi invitata qui e sono qui anche a nome di Lisa Stillo che è qua in sala con me, di Giulia Franchi e di tutti gli autori che hanno partecipato a questo volume e naturalmente a nome di tutte le scuole popolari che ci hanno permesso di fare questa osservazione partecipante. Perché è interessante questa assemblea? Perché sempre di più nel venire qui oggi mi interrogavo, quindi ho pensato di lanciarvi, di non raccontarvi il testo, perché spero che lo scoprirete da soli se avrete voglia tra le pagine, scoprire queste realtà importanti che animano i territori della città di Roma e non solo, perché abbiamo fatto delle incursioni anche a Palermo, a Bologna e anche in Sud America. L'idea qual è? Quella di ricostruire proprio un'idea di democrazia, cioè che cos'è oggi la democrazia? In fondo la scuola ha sempre accompagnato o doveva accompagnare questa idea di democrazia. Che cosa è successo? 30 anni, quasi 30 anni di autonomia, che cosa ci hanno insegnato? L'autonomia ha preso una piega dell'aziendalizzazione e quindi è diventata semplicemente far tornare i conti, riempire e assolvere a istanze burocratiche, o è davvero ha rispettato un principio che era quello della continuità educativa e quindi di valorizzazione del non formale, che poi è un po' la direzione che ha preso chiaramente il nostro testo e che ha guardato con grande attenzione a queste realtà delle scuole popolari che non sono semplicemente una stampella, cioè che non fanno solo dopo scuola, ma che introducono questi ragazzi nei territori, che fanno questo lavoro di presa di coscienza, coscientizzazione se vogliamo usare un termine freiriano, che dice dobbiamo essere partecipi ed essere costruttori di quella democrazia, cioè costruttori della nostra realtà, del nostro presente e del nostro futuro, e quindi che non si limitano ad attività di recupero scolastico e quindi torniamo al discorso del doposcuola, ma che si ampliano, che diventano anche attività ricreative per diventare dei cittadini a tutti gli effetti e che quindi dove l'arte accompagna, siamo in un museo, mi piace sottolinearlo, la bellezza dell'arte accompagna lo sviluppo della personalità e fa sì che la personalità diventi più indipendente, che sviluppi quel famoso pensiero critico che è necessario per essere cittadini consapevoli e quindi per animare la democrazia. Quindi una prima suggestione che mi veniva è: che idea abbiamo di democrazia e quindi quale scuola ci attendiamo? La scuola dopo appunto quasi 30 anni di autonomia che cosa ha fatto? Che piega sta prendendo? Dove vogliamo quale idea di società andiamo a costruire? Perché la politica ci sta dando dei segnali forti e forse l'idea di un'assemblea collettiva e di un interrogarsi su questo è quanto mai urgente ed importante. Un altro passaggio che mi ero segnata è il fatto di, facendo così, recuperando anche uno slogan, è il territorio al centro. Perché la scuola non è qualcosa di astratto, ma è qualcosa che vive dei territori, che sta sui territori e che quindi raccoglie anche le sinergie, le risorse dei territori. Anche lì torniamo al discorso dell'autonomia. Sta per una scuola che sta sul territorio, che insiste su un territorio, è davvero calata nella realtà, sente davvero gli umori che ci sono, e quello torna al discorso del principio della corresponsabilità educativa quando per esempio si lavora con le famiglie, quando per esempio si lavora con le associazioni, quando ci si mette in dialogo, una cosa che è emersa dal nostro lavoro è quello che le scuole popolari oggi, non sto a dirvi le differenze col passato, trovate tutto documentato nel testo, insomma a grandi linee, è quello che cercano un dialogo con la scuola, che si cerca questo dialogo, che non si va in contrapposizione, non siamo più negli anni 70, sono cambiati il discorso, la conflittualità assume delle connotazioni differenti. E allora cosa significa mettere i territori al centro? Cosa significa dare spazio, dare voce alle associazioni? Veramente considerare il territorio una risorsa? Anche questo è un interrogativo che a mio avviso ci si deve porre, che in un'assemblea non si può prescindere. Un ultimo passaggio, perché se non ricordo male avevo pochi minuti, è quello della decostruzione. Su questo questo è un tema che a me che mi sta molto a cuore, perché noi dobbiamo decostruire una serie di concetti che purtroppo sono ancora oggetto di pregiudizi, di banalizzazioni, di semplificazioni. Uno per tutti, periferie, cioè Velux è stata tirata in campo prima da Christian, no? Dicendo il discorso del margine, la periferia, c'è tutta una letteratura scientifica fatta anche da urbanisti, da architetti, e quindi non solo da chi si occupa di educazione, da sociologi, che rivendicano il valore propulsivo e rigenerativo delle periferie. Non è vero che alle periferie ci stanno le persone che sono solo ai margini, le periferie diventano anche luoghi. Ho incrociato prima Giulio che sta facendo un ottimo lavoro con la periferia di Tor Bella Monaca, no? Con il progetto Tornasole, cioè le periferie diventano invece esempi di buone prassi, di costruzione di modelli educativi, modelli sociali, educativi e civili alternativi. Quindi va riscoperta la periferia, bisogna stare nelle periferie e dare una lettura diversa, così come il discorso dei migranti, che è un discorso che sapete già meglio, di più, ma anche su questo c'è molto da interrogarsi, no? Perché tante volte anche, e così anche cambiare le centralità, no? E quindi la periferia al centro in un senso per una lettura differente. La decostruzione è fondamentale ed importante, e questo sicuramente ci aiuta a farlo proprio l'educazione. Quindi ve la butto come provocazione, chiaramente, perché è chiaro che poi invece ci sono delle realtà che rimangono comunque margini, perché c'è un discorso di subcultura, c'è un discorso anche di confini tra legalità e illegalità, quindi anche su questo andrebbe che le scuole in alcune zone, in alcune periferie, appunto periferie, devono fare un grosso lavoro da questo punto di vista per riscoprire il valore della legalità. E forse la cosa anche importante è quella di utilizzare la tecnologia che oggi noi abbiamo, come diceva prima Christian, vi lascio il link esatto per potervi collegare e usare la tecnologia, perché diventi veramente una modalità per sentire di più la voce. Quando negli anni 70 ci si riuniva e si facevano le famose assemblee delle controscuole, delle scuole popolari, non avevano la tecnologia, quindi tutto era più rallentato e rarefatto. Oggi io credo che la tecnologia possa essere anche espressione di democrazia e quindi vada utilizzata al meglio. Da ultimo, e concludo, il ruolo degli insegnanti oggi va ridisegnato. Mi piace molto il testo di Christian, che dice appunto scuola e resistenza. Forse l'insegnante è la persona che più oggi deve essere resiliente e resistente, e forse su questo bisognerebbe interrogarsi. E chiudo qua, perché ci sono tanti insegnanti che vorrei che prendessero la parola. Passo il microfono al mio collega. Allora, chi si vuole insegnare? Pietro Savastio. Io avevo, diciamo, immaginato che l'avvio potesse essere dato alla professoressa Zizioli, che appunto ha fatto questo libro, al professor Cristiano Corsini, che insegna sempre a Roma 3 e che si è occupato moltissimo in questi anni di valutazione, dalla professoressa Giulia Dazzi, che coordina una scuola popolare, una piccola scuola popolare a San Lorenzo, si chiama La Scoletta, e un progetto educativo che si chiama Base Camp. Claudia si occupa del progetto educativo che si chiama Base Camp anche, che è un progetto di sostegno allo studio, diritto allo studio, Claudio Ricci che invece insegna in un nido qui a Roma, e Rachmanur anche che invece appunto insegna in una scuola elementare. E con alcune di queste persone abbiamo dato anche, c'è un volume che è in uscita per la terza da qualche giorno che si chiama Alfabeto della Scuola Democratica e che è acquistabile al Bookshop. Forse quindi partirei da Cristiano, da Giulia, da Claudia, vai tu Cristiano. Allora, vogliamo mettere il volume qui, così è più, no, lo vedo. Ce n'è uno così. Usiamo questa borraccia per esporre i volumi al pubblico. Okay. Però io non parlo di questo volume, giusto per avere un riferimento. E, immagino, Cristian mi ha dato la parola per parlare di valutazione, il rapporto tra valutazione e voto. Vogliamo, cioè, ho scritto di questo. Vado avanti, okay. Scusate. No, non lo so, magari. Dunque, rispetto a quei temi che stanno lì, credo che il ragionamento sulla valutazione probabilmente intercetti soprattutto quello legato al rapporto tra formazione e ricerca, almeno per come lo sto vivendo io adesso. Non so quanto tempo ho. 4 minuti. Ok, allora molto semplicemente, abbiamo un grosso problema sia in università sia nelle scuole, ed è legato al fatto che la valutazione teoricamente, a volte anche in pratica, ma non molto spesso, in realtà è uno strumento che ci consente di comprendere, di conoscere delle cose per trasformarle. Cioè la valutazione servirebbe a questo. I processi valutativi messi in atto dall'Homo sapiens, generalmente, ok, da 200.000, da quando è comparso circa, 200.000, ma adesso non ricordo, comunque non c'ero, poi circa 200.000 anni fa nell'Africa orientale, più o meno, ha usato sempre i processi valutativi per affrontare dei problemi. Abbiamo un grosso problema però a scuola e università. A scuola e università quel processo valutativo viene utilizzato soprattutto per stilare delle gerarchie, delle graduatorie, per selezionare e per bloccare delle persone. Questo è il problema, tutto qui. Cioè, poi ognuno se la racconta come vuole, in 3 minuti non posso raccontare più di tanto, però fondamentalmente il problema è questo. Il problema dei problemi è che poi molto spesso la gestione della formazione dell'insegnante o del futuro insegnante, quindi la formazione in itinere dell'insegnante di scuola, la formazione in ingresso del futuro insegnante di scuola è affidata a docenti universitari, e l'università è il bastione dell'utilizzo disfunzionale e antieducativo della valutazione. E quindi molto spesso tu hai delle persone che razzolano in maniera completamente opposta, tranne rare eccezioni come Elena Zizioni, rispetto a come predicano. E quindi qui dentro il problema della valutazione, che è un problema interno alla scuola e all'università, con tantissime eccezioni, qui abbiamo vari docenti del coordinamento per la valutazione educativa che a scuola, nelle scuole secondarie, usano la valutazione in funzione trasformativa e non competitiva, gerarchizzante, però la norma è quello che è. Però qua dentro abbiamo anche un problema di rapporti gerarchici tra università e scuola, e in questo momento l'università in generale e la pedagogia accademica in particolare sta vivendo una trasformazione spaventosamente retriva, in cui cioè stanno prendendo corpo delle forze all'interno della pedagogia accademica, e assumo tutte le responsabilità di quello che dico, che sostanzialmente puntano all'utilizzo della formazione e della valutazione come controllo e non come sviluppo, anche laddove sono chiamate a fare formazione sulla valutazione formativa. Però applicano il loro canone, che è un canone gerarchizzante. Quindi tu hai un minuto verso la conclusione, io ho un minuto verso la conclusione, molto semplicemente. Il docente si iscrive a un corso per motivi più o meno nobili ma comunque comprensibili, cioè si iscrive a un corso di formazione perché vuole apprendere o si iscrive a un corso di formazione perché c'ha bisogno di qualche punto in graduatoria, sono tutti e due motivi più o meno nobili ma comunque comprensibili. Un corso sulla valutazione formativa in cui non c'è un momento di valutazione formativa, un corso sulla didattica per competenze che è tutto frontale, perché all'università fa comodo così. E allora, finché non usciamo da questo rapporto gerarchico e ipocrita, sicuramente faremo pochi passi in avanti, sia in università sia nelle scuole. Secondo me le scuole stanno facendo molti passi per conto loro e, lo dico a malincuore, è bene che vadano per conto loro e che cerchino rapporti via via più sporadici con l'università, che in questo momento sta andando da un'altra parte. Grazie. Vado io. Allora, io volevo dire questo, riparto da una cosa che ha detto la professoressa Gigioli, che ho scritto tra l'altro appuntato sul suo libro, che stavo leggendo proprio perché io ho un piede nella scuola, perché la mattina insegno nella scuola secondaria di secondo grado, insomma al liceo, e il pomeriggio, due pomeriggi a settimana invece insieme a tanti compagni e compagne che sono anche qua oggi, proviamo a tenere in piedi questa cosa che non so se definire a tutti gli effetti una scuola popolare o un doposcuola, perché come dice giustamente la professoressa, un doposcuola non basta a fare una scuola popolare, però di solito è l'abbrivio, cioè è il modo in cui un'esperienza di scuola popolare parte. Quindi diciamo che cerco di dire due cose, spero semplici e brevi, sulla democrazia e la scuola a partire da queste due esperienze. Innanzitutto, a scuola mi sono resa conto che i miei colleghi e le mie colleghe negli anni, sempre più spesso mi capita di dovermi scontrare in consigli di classe in cui l'esistenza dell'esclusione, della marginalità, anche e soprattutto quella di ordine socio-economico, è completamente ignorata, è negata totalmente. È sempre, nonostante appunto la normativa sui BES che esiste e che cita anche le condizioni di svantaggio socio-economico, comunque la nostra frase preferita rimane sempre: non c'ha voglia di studiare, questa scuola non è per lui o per lei. Quindi in realtà quello che dovremmo fare, cioè provare ad analizzare tutte le possibili direttrici che portano a una prestazione scolastica, chiaramente questo, nonostante la normativa ci deve farlo, non lo facciamo. L'esito di questa cosa è, ce lo danno i dati, basta prendere i dati che riguardano studenti con cittadinanza non italiana, ora non sono recentissimi questi, però fondamentalmente quando arrivano a 18 anni, con quando arrivano ai superiori, il 53% degli studenti con cittadinanza non italiana è in ritardo. Il ritardo vuol dire che ha accumulato uno più anni di ritardo scolastico, 53%, a fronte invece degli studenti con cittadinanza italiana che sono il 16% in ritardo. 16 studenti italiani, 53 studenti con cittadinanza non italiana. Ora, se questo non è esclusione, ghettizzazione, marginalizzazione sociale, mancato accesso a un diritto fondamentale come quello dell'istruzione, io non so come chiamarlo. Questo è quello che si vede la mattina a scuola. Il pomeriggio a scuoletta, che è un appunto dopo scuola, una scuola popolare che sta a San Lorenzo, vediamo tutto quello che c'è nella gigantesca complessità di questi bambini e di queste bambine che piano piano crescono. Io voglio dire solo una cosa su cui non sono d'accordo, ed è la conflittualità. Il conflitto invece va riportato dentro le scuole, va riportato dentro le scuole da parte di chi sta fuori o comunque sulla soglia, perché da quando la scuola è diventata un'azienda, di fatto ogni cosa viene gestita come in qualche modo una fonte di interesse, una fonte di gestione del potere. Quelli che normalmente, se vogliamo dirlo in modo positivo, si chiamano stakeholder, di fatto non sono altro che spesso interessi che chi lavora dentro la scuola, siccome già guadagna 4 lire, fa in modo che progetti, cose vengano affidati a amici, situazioni che... Cioè di fatto le scuole sono diventate anche, quando non c'è una dirigenza che, come direbbe Cristiano, è una monarchia illuminata, quando non c'è una dirigenza che è una monarchia illuminata, comunque le scuole rischiano di scadere all'interno di queste dinamiche di gestione del potere su base territoriale. E questo, come dire, fa sì che, vi faccio un esempio veloce e chiudo, alla scuoletta San Lorenzo noi abbiamo 50 tra bambini, bambine, vanno dalla prima elementare a oramai il secondo liceo, sono quasi tutti di origine di famiglie bengalesi. I loro diritti, i loro interessi non vengono tutelati da nessuno. Per anni la scuola ce li mandava a fare i compiti, ma non ci dava neanche un'aula, neanche un'aula per farli. Ce li manda e non ci dà un'aula. Ok? Si muovono i genitori italiani per chiedere A o B e la scuola immediatamente si mobilita per rispondere a quelle richieste. È ovvio che esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, è ovvio che quindi di conseguenza esistono studenti di serie A e studenti di serie B. Chiudo. Io sono un'educatrice nido e qui rappresento secondo me un momento molto importante, che è appunto quello dello 06, ed è una pedagogia che secondo me culturalmente ancora deve far parte del nostro patrimonio culturale, cioè realmente non lo abbiamo. E quindi a confronto mi rendo conto con tutto il percorso formativo che arriva fino all'università, secondo me è un momento fondamentale, probabilmente sono l'unica in questa sala, mi piacerebbe sapere se lo sono, mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno che è coinvolto dal punto di vista educativo con una fascia appunto 06, se c'è qualcuno alzi la mano e sono, non mi sento più sola. Ok, l'hai attraversata, però poi hai cambiato, ok, poi hai abbandonato perché no, però hai uno step successivo, ok. Però ti assicuro che io mi trovo in questo momento, per esempio, molto a riflettere su me stessa, no? Nel senso, se per ottenere qualcosa, per avere credibilità, per avere... va bene che rimango in questo step, oppure posso passare a un altro step dove magari riesco a fare di più, anche ad essere appunto non sola in un contesto tipo questo. E quindi secondo me ci sono la pedagogia dell'ascolto, l'osservazione, ci sono concetti fondamentali che nascono nell'educazione proprio dei primi anni. E sono concetti che andrebbero valutati. Noi abbiamo, dal punto di vista legislativo, in realtà una legislazione buona, molto buona, ma c'è una continuità 06 che su carta esiste, realmente non si fa, e quindi c'è una grandissima sofferenza, perché un bambino che entra in un nido è un cittadino, è la prima esperienza di cittadinanza che facciamo. E quindi ci dovrebbe essere un investimento massimo. Questo fa parte chiaramente di sono tante le problematiche nella scuola, ma che sono state affrontate. Questa chiaramente è stata vista, in altri paesi funziona diversamente, ma quello che viene fatto ancora è considerare questo proprio perché non è istruzione ma è educazione. E proprio perché è ancora legata molto a un concetto di cura e di assistenzialismo. Allora, la cura secondo me è fondamentale a tutti i livelli. Parlare di cura nello 03 ha un senso, ma è lo stesso senso che ha parlare di cura in un corso universitario. è la stessa cura, la cura quindi che nasce in quel percorso formativo che è appunto gli arbori, sono il primo approccio educativo è fondamentale, quindi il fatto che non sia, che non ci sia un investimento, che non ci sia una consapevolezza anche degli adulti, la rappresentanza maschile in quell'ambito educativo è inesistente, è meno dell'1% fino agli 0,8, e questo chiaramente è un problema, perché è un problema, perché c'è un problema di femminilizzazione del lavoro nel nostro paese molto grande, c'è un problema di blocco del pensiero divergente. Quello che noi facciamo a scuola molto spesso è andare già a dare uno standard di quello che deve essere. Ci sono tanti gli ambiti in cui bisognerebbe valutare, bisognerebbe pensare, bisognerebbe investire, e quindi diciamo io sono qui come piccola rappresentanza di questa mancanza ancora nella scuola e nell'educazione, nell'istruzione. Buonasera, io sono Rahma Nur e come diceva Cristian, sono una maestra di scuola primaria, e una delle rarissime maestre nere, una delle rarissime maestre con disabilità, quindi sono qui portavoce di queste due gruppi, ecco, di persone. Non voglio, ecco, farvi perdere molto tempo, però mi sono segnata un po' di cose, un po' di parole che sono anche, no, arrivate. Inclusione, integrazione, studenti stranieri, disabili, e spesso, ecco, queste sono parole che sentiamo soprattutto, no, anche dai cosiddetti politici. E noi insegnanti facciamo anche lo slalom per diciamo attraversare e creare percorsi didattici, no, di apprendimento per tutte le figure di persone, individui che attraversano la scuola, e quindi ci arrabattiamo tra PEI, BES, NAI, cioè tutti acronimi che conosciamo noi nella scuola, ma che è i genitori che seguono queste cose, ma chi sta in alto conosce ben poco. Io volevo leggervi alcune cose che sono, diciamo, arrivate ai media e quindi poi si sono ripercosse un po' nella nostra quotidianità. Allora, una è: a scuola classi separate per gli alunni disabili. La scuola deve essere dura e severa. Pioltello, scuola chiusa per la festa del Ramadan. Alcuni genitori protestano. Ecco, queste sono alcune degli slogan, delle invettive che hanno attraversato i giornali. Poi ce n'è una che mi ha colpito ancora di più. La scuola italiana è il regno della menzogna. Sulla carta tutto è previsto, tutto funziona e alla fine tutti sono promossi. Sapete bene chi lo ha detto, non voglio fare nomi. La realtà, dice sempre questa persona, è ben diversa, a cominciare dal mito dell'inclusione. Nelle aule italiane convivono regolarmente, non pacificatamente, serenamente, no, regolarmente, accanto ad allievi cosiddetti normali, anche ragazzi disabili, gravi, ragazzi con i BES e ragazzi stranieri incapaci di spiccicare una parola d'italiano. Io ero una di quei ragazzi che è arrivata in Italia a 5 anni e non spiccicava una parola d'italiano, e chissà come ora insegno italiano. E quindi una cosa che mi fa molta rabbia è sempre questo definire i ragazzi con un background migratorio sempre stranieri. Non c'è nessun riconoscimento del fatto che magari sono nati qui, che crescono qui, e che la scuola e quindi tutta la società insieme dà qualcosa a questi ragazzi e diventano cittadini, o perlomeno noi a scuola li trattiamo come cittadini, alla pari di tutti i bambini che sono nelle nostre aule. Questo per quanto riguarda i cosiddetti ragazzi stranieri. Per quanto riguarda invece la disabilità, e quindi i bambini e le bambine con disabilità, recentemente il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di alcuni, insomma, dei genitori di uno studente con disabilità al quale il Comune aveva ridotto le ore di assistenza scolastica previste dal PEI, quindi dichiarando e quindi buttando giù anni e anni di legge, di situazioni, insomma, che erano conformi, dichiarando auspicabile l'inclusione. Allora, questa parola auspicabile, detta da questi personaggi che non sono mai entrati nelle nostre aule, non sanno nulla di quello che facciamo, non sanno nulla dei nostri bambini, delle nostre bambine, non sanno nulla di quello che noi insegnanti, appunto, lottiamo ogni giorno perché questi bimbi siano sereni a scuola. Auspicabile è una parolaccia, cioè non si può dire che il diritto di un essere umano sia auspicabile. Mi fermo perché è finito il tempo. Grazie. Appena finisco do la parola alle persone che si sono segnate a parlare. Cercherò di stare in questi 3-4 minuti che mi sembrano veramente pochi, brave e bravi a tutti gli altri per il dono della sintesi. Allora, tutto quello che è stato detto secondo me è di fondamentale importanza e si potrebbero stare ore su ciascun intervento di quelli che è stato fatto. A me sembra che forse un'urgenza che abbiamo è proprio quella di spostare poi il discorso un po' forse dal tecnico al politico. La domanda che è stata posta all'inizio per me è chiave, cioè che idea abbiamo della democrazia? Noi per me viviamo di fatto in un'oligarchia elettorale dove la parte proprio di partecipazione che ci è lasciata come cittadini singoli è molto molto risicata. Abbiamo perso tantissime di quelle strutture, corpi intermedi che permettevano una progressiva partecipazione alla vita pubblica. E questo tipo di denuncia non riusciamo mai a farla diventare una pratica conseguente, non riusciamo mai a fare una massa critica tale per cui riacquisiamo una sorta di potere. Abbiamo dismesso una serie di parole come rivoluzione, eccetera, forse rivoluzione appunto ormai è una parola bandita, però allora dovremmo tornare a parlare di trasformazione radicale. Perché non è più un tempo per delle piccole, per del maquillage, per delle piccole riforme, come dire, di piccolo cabotaggio. Abbiamo proprio bisogno di una trasformazione radicale, perché siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Il tempo non basta più. La gravità delle cose che stanno succedendo cresce, mi sembra, di ora in ora. Dal massacro di interi popoli a, appunto, la progressiva crescita di disuguaglianza, veramente a scale che preoccupa, così come tutta la questione che ha a che fare con l'ambiente, con l'ecologia. Cioè non è più un tempo appunto per discussioni della domenica al museo, secondo me, lo dico pur essendo qui, perché poi è qui che bisogna stare, per carità, però da qui forse dovremmo partire anche per andare da qualche altra parte. Cioè questo tipo di trasformazione radicale noi o ce lo diciamo o comincia ad esserci una certa urgenza, oppure sì, ci lamentiamo, ci diciamo che dovremmo fare questo, quest'altro, c'è questa riformina che ci serve, c'è la democrazia in classe. Allora, io vengo da un'estate in Messico, ho avuto questa fortuna di fare un viaggio in Messico. In Messico parlano tantissimo di questo binomio, dicono in classe la proposta, in strada la protesta. Cioè, noi come insegnanti chiaramente ci dobbiamo occupare delle tecniche, della didattica, dei metodi, di come si sta, qual è la postura, eccetera, eccetera. Ed è fondamentale, parleremo tantissimo di questo oggi e lo dobbiamo fare continuamente in termini di formazione, autoformazione e quant'altro. Ma d'altro canto c'è una dimensione di protesta in strada, una dimensione prettamente politica del nostro lavoro, che noi o ci riassumiamo o nessuno si riassumerà al posto nostro. Allora queste io credo che sono cose che noi o ce le diciamo qui, oggi, che siamo in un'assemblea, siamo 40, 50, 60, 80 persone, oppure non ce le diciamo più. E qui poi c'è il tema che diceva Cristiano Corsini prima, cioè c'è gente che predica delle cose e ne fa delle altre. Allora, in pedagogia istituzionale, che è una corrente di pedagogia che mi è molto cara, si dice che l'insegnante cattivo dice fai quel che dico io, non quello che faccio io. Il famoso praticare bene e razzolare male. La pedagogia istituzionale invece come un tabù ti obbliga a scriverti fai quel che dici e di quel che fai. Quindi noi dobbiamo stare su questa coerenza tra le pratiche che abbiamo e quello che diciamo. Qui non possiamo venire qui a dire cambiamo una serie di cose e poi non siamo conseguenti nella pratica. Dobbiamo essere in grado di fare quello che diciamo. Tocca a me dare la parola ad Emiliano, che sta lì. Grazie. Buonasera. Dunque, ho ascoltato alcune cose e parto dalla testimonianza che è stata data, visto che c'è anche Giulio Cederna qui di Torbella Monaca, dato che io ho insegnato per 11 anni a Torbella Monaca in via dell'archeologia e ho visto con i miei occhi e ho sperimentato sulla mia pelle fino allo scorso anno quelli che sono stati i benefici di questo intervento da parte della Fondazione Bulgari. Ho cambiato scuola e questo valore propulsivo e rigenerativo di cui si parlava l'ho ritrovato cambiando scuola, perché magari insegnando per 11 anni in via dell'archeologia entri all'interno di un mondo che quello è. Poi se ne esci, dopo 11 anni, ti rendi conto che hai appreso molto tu, magari hai provato a dare qualcosa, ma tu hai veramente appreso molto, è stata veramente una scuola anche per te. E quindi questo connubio, questo incontro anche con il privato, in questo caso molto molto positivo, può avere i suoi risultati, ma secondo il mio punto di vista dobbiamo stare sempre molto attenti, perché non c'è soltanto Giulio Cederna, ci sono anche altri che tentano di entrare dentro il mondo della scuola da 20 anni a questa parte e i risultati sono molto molto negativi. Quindi questo credo che sia un nostro compito fondamentale di insegnanti, cercare di capire con chi interagire. Volevo dire qualche altra cosa in questi pochi minuti. Mi sono segnato il tempo e lo spazio della scuola. Io credo che noi dobbiamo ricominciare a pensare un po' il tempo e lo spazio della scuola. Non ci nascondiamo, io sono venuto qui con i miei due bambini che stanno lì, noi siamo diventati fondamentali per mandare i genitori a lavorare, ma i tempi della scuola, il tempo della scuola secondo me dovrebbe essere un po' ripensato, lo stesso tempo pieno 8.30, 16.30 per quanto riguarda la scuola primaria secondo me va un attimo rivisto, se deve continuare in questo modo lo so che non sarò, come dire, seguito da molti colleghi, bisogna rivedere anche il sistema dei compiti a casa. Mi sono preso un dato che c'era qui, che è scritto qui in questo libro di Gianna Fregonara e Ursula Riva, uscito da poco, Non sparate sulla scuola, che tra l'altro leggevo in contemporanea con Scuola e Resistenza. Uno studio monumentale del 2008, intitolato Apprendimento visibile, insegnamento efficace, dice che combinando i dati raccolti in oltre 50.000 ricerche che hanno coinvolto 80 milioni di studenti, secondo il pedagogista neozelandese Atti, ha stilato un elenco dei fattori che hanno un maggiore impatto sull'apprendimento degli studenti. I compiti a casa sono all'ottantesimo posto su 138 voci, ottantesimo posto su 138 voci. Io dico che se un bambino sta a scuola 8 ore al giorno, il sabato e la domenica non può fare i compiti a casa, perché ci sono altre cose che la scuola pubblica italiana purtroppo non consente. Finisco dicendo che su questo dobbiamo interrogarci noi insegnanti, dobbiamo cercare di lavorare meglio anche tra noi. Io mercoledì non vedo l'ora di tornare a scuola e non sopporto nella chat i colleghi che mi dicono ricomincia l'inferno, se ricomincia l'inferno cambia lavoro. Butto lì due cose, perché poi è facile criticare. Si parla di più scuole, meno male. Ragionavo con Ascanio Celestini, che la prima manifestazione che abbiamo fatto insieme per lo Ius Soli era del 99, sono passati 25 anni e non ci sono stati solo governi di centrodestra. Se ragioniamo sugli Ius Soli nella maniera dovuta, magari ragioniamo, per tornare ai tempi della scuola, sulle attività sportive, che implica un discorso sulle strutture, ed è per questo che per esempio l'intervento di Cederna della Fondazione Bulgari per noi lì è stato fondamentale. Ragioniamo sulla lingua inglese, non si può secondo me insegnare la lingua inglese in questo modo ancora nella scuola pubblica, deve essere migliorato. Ragioniamo sull'insegnamento, non per eliminare la religione cattolica, ma ne abbiamo parlato più volte con Cristian, della storia delle religioni, così anche da dentro facciamo il nostro lavoro per costruire, non voglio dire la scuola del presente, perché è la scuola di ieri, perché doveva esserci già da ieri. Grazie. Allora, visto che tanto siamo tra tante persone che si conoscono, sono pure amiche, ci possiamo pure un po' lasciare andare. Userò un po' uno stile, dov'è Elisa? Almeno io faccio così con l'assemblea in classe dell'MCE. Critico, mi complimento, propongo. Critico intanto Cristian, chi è? Beccate questa, perché purtroppo, guarda come siamo disposti. Rimane un problema, nel senso, se gli invitati, gli esperti che danno là l'assemblea sono tutti da un lato e l'emiciclo sta tutto di fronte, inevitabilmente riproduciamo un certo modo di intendere la relazione tra l'intervento e lo stimolo che abbiamo profondamente introiettato tutti quanti, ed è il motivo per cui purtroppo questa scuola continua a funzionare così, perché in realtà ce l'abbiamo tutti quanti dentro, pure quelli che diciamo di contestarla e vorremmo fare diversamente, a me non abbiamo proprio incrociato nel nostro percorso, proprio sbattuto contro Ciari, Lodi, l'MCE dalla mattina alla sera, poi dentro la classe, nei vari gradi, tendiamo a riprodurre una situazione molto, molto frontale, no? E su questo penso che dobbiamo riflettere. Mi complimento con Claudia perché io penso che lo spunto che lei dà sull'importanza dello 06 debba in qualche modo far riflettere tutti quanti noi, perché con i bambini piccoli non lo puoi fare, non lo puoi proprio fare, cioè non ti puoi mettere a parlare tu tutto il tempo e a far ascoltare loro, anche quando i contenuti di quello che tu credi siano fondamentali, indipendentemente dall'età, no, tu pensi che effettivamente debbano arrivargli a tutti i costi. Con loro non lo puoi fare, devi per forza ascoltare, entrare in un grado di empatia, mettere loro avanti a te, e se anche noi che insegniamo negli altri gradi riusciamo a assimilare questo approccio, che non è un caso, infatti nello 06 la sperimentazione didattica sia sempre andata più avanti rispetto, è anche per questo cortocircuito, no? Che c'è. E propongo effettivamente di provarci, cioè di provarci nella classe, di provarci quando rientriamo in classe, di provare a vedere che cosa succede se ci facciamo di lato. Adesso Simone e Nicoletta, che con cui condividiamo il gruppo romano dell'MCE, scivola perché sente da me in controtendenza rispetto a quello che diceva il compagno sui metodi e le tecniche. Io penso che questa sia una fase nella quale dobbiamo invece tornare tanto a metodi e tecniche, perché purtroppo dentro la classe, non so, magari ho interpretato male quello che volevi dire, però penso che dentro la classe ancora tantissimi insegnanti ispirati dalle migliori intenzioni e convinti di poter fare una scuola diversa, purtroppo replicano un modello molto tradizionale. Marco, io mi voglio riferire a quello che ha detto Giulia Dazzi, che secondo me, connotando un dato, è proprio centrato il cuore del problema, su cui secondo me ci dovrebbe essere centrato l'impegno, cioè questi 53% di ragazzi di famiglia immigrata in ritardo contro il 16% di italiani, no? Che se poi andassimo a vedere magari famiglie italiane con genitori che hanno bassi titoli di studio, non hanno non sono arrivati alla scuola secondaria, troveremmo dati simili. No, che la questione appunto è cruciale, anche perché per questa discriminazione socio-economica invisibile, cioè non è che siamo nell'Alabama degli anni 50 in cui c'è la classe segregata, no? Apparentemente è tutto inclusivo, è tutto rispettoso, però vengono, come dire, occultate certe differenze, cioè che molti bambini certi prerequisiti non ce l'hanno proprio perché come dire, la loro provenienza familiare non gliela forniti, e si usano come parametri scontati degli apprendimenti, dei prerequisiti scolastici, quelli magari delle famiglie di un certo livello intellettuale, quindi viene occultata questa differenza e lì c'è la discriminazione. Però io allora non voglio chiacchierare sulla, diciamo, sull'analisi di questa questione, però mi domando che fare, perché siccome questa cosa della discriminazione socioculturale è rimasta nella storia, indipendentemente dal fatto che ci fossero governi più di sinistra o di destra, anche quando la sinistra aveva la cosiddetta egemonia culturale, nessuno ha detto, cioè a Barbiana praticamente quelli che erano stati bocciati nella scuola pubblica invece imparavano, però nessuno della sinistra ha detto beh, li facciamo Barbiani, no? Riprendiamo quelle metodologie e definiamo come centrare il riconoscimento dei ragazzi che vengono da famiglie con basso livello, non l'ha fatto nessuno, invece decreti delegati, democrazia, cioè discorsi generici che in realtà hanno contribuito a mantenere. E allora io pensando a che fare, io dico, insomma, si fa la scuola privata no profit in cui si rifà Barbiana, oppure si fa la sperimentazione della scuola pubblica in cui vengono Giulia Dazzi e altre professoresse e professori formati su questa questione della discriminazione socioculturale e portano avanti un'altra metodologia e diciamo appunto, e si chiede però perché va cambiata la metodologia, va cambiata la didattica. Io perlomeno una cosa più modesta, su queste scuole popolari che potrebbero essere un ponte importante per la lotta alla discriminazione socioculturale della scuola, facciamo qualcosa di concreto, facciamo un crowdfunding ad esempio per dargli un finanziamento, per renderle più visibili, che forse queste potrebbero essere il ponte che magari ci consente di attaccare questo problema dentro la scuola. Io sono un genitore democraticamente impegnato nella scuola perché sono presidente del consiglio d'istituto, scusate le spalle, siete dietro, di una scuola secondaria di secondo grado in periferia, adesso non c'è la professoressa, a Tiburtino Terzo, quindi periferia di Roma. Vi farei una domanda, intanto qui siamo, ve la faccio a voi, quanti insegnanti ci sono qui oggi? La maggioranza, direi la maggioranza. A cosa serve la scuola? Faccio il bambino de 06, nel senso che a cosa serve la scuola? Ce lo siamo domandati e probabilmente non saremmo d'accordo noi qui, perché il problema grosso è che c'è un grosso misunderstanding sulla scuola. E secondo me lo slogan da portare avanti è quella di trasformare la scuola da luogo di insegnamento a luogo di apprendimento, perché la scuola serve agli studenti ad apprendere, non è la scuola degli insegnanti, è la scuola degli studenti, e quello ce lo dimentichiamo sempre ed è una cosa invece fondamentale. Qui si parla di scuola ma gli studenti non ci sono. Io parlo degli studenti di superiori, ci sono i bambini e mi fa tanto piacere e li ascolteremo dopo, però questa cosa è importante. Alla superiori prima si parlava di orari, ma nessuno ha mai chiesto agli studenti se gli orari delle superiori gli vanno bene. C'era stata una sperimentazione in cui si iniziava più tardi che poi è finita nel nulla. Altra cosa in, diciamo, in, non voglio dire polemica perché è una parola, però che non mi piace delle tre parole democratica, popolare, aggiungerei pubblica, perché è un, come dire, una cosa che mi piace tanto, perché è pubblica. Sperimentale, no, basta. Basta con la sperimentazione. La scuola deve essere scuola, cioè scuola nel senso deve essere un luogo proprio perché è democratica e popolare e pubblica e mi viene il termine inglese equality, cioè è per tutti, deve essere comunque anche qualcosa che non è sperimentazione, perché la sperimentazione è sempre qualcosa che sì, si fa oggi, poi domani non si fa più. Anzi, se posso dire, l'autonomia di cui si è parlato anche prima è stato forse uno dei più grossi danni in questo periodo dal punto di vista proprio di gestione della scuola, perché la scuola in Italia in questi 30 anni di autonomia è diventata le scuole. Esistono i poli di eccellenza dove si è fatto sperimentazione, tante belle scuole, alcune belle scuole, e poi c'è il resto delle scuole in Italia. Ci vuole la scuola che abbia una linea comune, che dia pari opportunità a tutti. E ultima cosa, spero di entrare nel minuto, sul discorso della democrazia. La democrazia a scuola ci sarebbe, e lo dico da Presidente del Consiglio d'Istituto. Il problema è che è vista come fumo negli occhi e gli studenti stessi non sanno che possono far parte di questa democrazia, non sanno che possono bloccare le attività economiche della scuola e quindi dare fastidio alla scuola stessa. In realtà hanno un potere, ma non lo esercitano, e questo è un altro grosso problema. Io sono anche una docente, insegno in un istituto alberghiero, come io lo chiamo ghetto, e quindi in parte mi ricollego anch'io al discorso che faceva Giulia Dazzi, perché lei parlava di studenti di serie A e di serie B, e ci sono anche scuole di serie A e di serie B, e io sto in una di quelle dove un anno fa avevo proposto di fare, a proposito di BES socio-economici, un PDP a un ragazzo, e i miei colleghi mi hanno detto: ma se lo facciamo a lui lo dobbiamo fare tutti qua. Quindi, però cosa c'è a monte? È vera quella frase era vera, perché a monte c'era un discorso di segregazione sociale, per cui all'alberghiero già ci vanno perché vengono selezionati alle medie quelli che hanno i problemi socio-economici, la disabilità. Quest'anno abbiamo avuto 105 iscrizioni nuove di disabili, che ci porterà ad averne 4 o 5 nelle prime. Ora, non che sia un problema in sé, ma a parte che la legge lo dovrebbe vietare, lo vieta, ma c'è un discorso proprio di formazione prima di tutto, perché devi essere formato per avere 5 disabili in classe con classi da 20, e con disturbi comportamentali, perché all'alberghiero ci vengono quelli che hanno tante note alle medie, i pluriripetenti, quelli che sono già verso la dispersione scolastica. Quindi teoricamente è come se diventasse, l'alberghiero diventa una specie di concentrato di tutti i problemi della società, e è impossibilitato a risolverli evidentemente. E quindi ora nel dibattito pubblico, ma in generale anche io cerco da 2 anni di formarmi per essere più formata per i problemi che devo acquisire, perché poi è questo il problema: gli studenti diventano problemi. Non li chiami più studenti, non li pensi più come studenti, ma li pensi come problemi in più che devi risolvere e che devi gestire. E la formazione anche è problematica, perché è pensata per i docenti di liceo, magari vecchio stampo, che non sanno ancora fare didattica un po' innovativa, e non c'è molta offerta per chi invece sta in questo tipo di scuole. E L'anno scorso ho partecipato a un corso di formazione organizzato da Giulio Iraci, che è qui presente. Una docente che era lì, quindi teoricamente illuminata, come noi tutti ci stiamo auto osservando, pensando che solo perché siamo qui dentro siamo per l'idea giusta di scuola, mi disse, una professoressa mi disse: vabbè, ma è normale che i disabili vadano all'alberghiero, non possono andare al classico. E se già, allora, se già noi, cioè se già i docenti sono classisti, razzisti, iperabilisti, eccetera, tra l'altro ignoranti, perché un differenziato potrebbe stare anche alla Sorbona, il problema è quello. Però cosa succede praticamente? Diventa che non ci sono i fondi, perché anche l'inclusione ha bisogno non solo di formazione, ha bisogno di fondi, perché non si può farla altrimenti. E qual è l'effetto ulteriore? Che in realtà c'è più conflitto, perché avere 5 disabili in classe creerà conflitto. Finito? Un minuto? Ok. Non c'è la volontà politica, abbiamo un governo di fascisti, abbiamo dirigenti spesso fascisti, abbiamo colleghi spesso fascisti, quindi noi siamo una minoranza, abbiamo bisogno di questi momenti per ricordarci che non siamo soli, ma siamo una minoranza e non c'è la volontà politica, non arriveranno soldi per fare corsi di L2, per fare corsi per evitare la dispersione scolastica, non arriveranno, quindi io mi devo iperresponsabilizzare, non devo dormire la notte, ma che posso fare? A parte lavorare gratis, perché poi questo è l'effetto. Magari, poi sono antilavorista io, questo detto per inciso, quindi perché dovrei lavorare gratis per la scuola? Però alla fine c'è il ricatto, perché sono esseri umani, non sto in fabbrica, è difficile essere antilavoristi a scuola, no? Quindi a un certo momento mi chiedo anche, perché non si parla, cioè quando si parla di scuola, la signora diceva ci sono le scuole, sono tante oltre ai territori, e è fuori completamente dal radar il fatto che ci sono alcune scuole che condensano tutti i problemi della società, che dovrebbero essere in realtà più importanti dei licei. Allora, ciao, io sono Loris ed ero felicissimo fino a poco fa, perché per una volta mi sembrava di poter resistere a tutte le suggestioni di chi ha parlato prima di me, ma poi ha parlato il genitore e ha detto le parole magiche dicendo: a che cosa serve la scuola? Perché in una bellissima chiacchierata con Alessia Barbagli qualche mese fa dicevo: sarebbe meraviglioso potersi chiudere dentro un posto in 100, 200, 300 mila, tutti quelli che vogliono parlare di scuola e di educazione, e uscirne con un punto di vista, perché mi sembra che molte volte sia sottinteso ma non sia né comune né condiviso né chiaro, e questo è un problema, perché poi se non abbiamo la risposta a questa domanda è complicato dare la risposta a come si fa a farla democratica la scuola, se non sappiamo molto a che cosa serve, o perlomeno se non siamo tutti d'accordo su a che cosa serve la scuola, perché la cornice della valutazione di cui Cristiano Corsini per fortuna non mi viene la parola, però su cui ci illumina, condivido tantissimo tutto il pensiero sulla valutazione educativa e formativa, viene meno se poi non ci diciamo a che cosa serve la scuola, perché poi comunque gli insegnanti a fine anno in un modo o nell'altro devono valutare quello che rispondono per andare per breve. E quindi io sono qua a aprire un'altra questione, bellissimo pure le cose tue, ma se riprendo pure le tue ho finito l'intervento mio, e sono qua per aprire una questione che non è una critica se non affettuosa alla pubblicazione che ho solo sfogliato per titoli, però dai titoli mi sono accorto che nei contributi non c'è neanche uno psicologo, mi sembra, e correggetemi se sbaglio, perché mi sono letto i profili delle persone che hanno scritto il libro che stiamo attenzionando e non c'è un contributo psicologo, perché forse non c'è un contributo di psicologia. E questo è un tema, le parole quelle in rosa, chissà perché solo quelle, se in rosa Christian, spazio di parole benessere, no, quelle lì sulla lavagna, sono quelle che ho chiesto io a Christian, perché alle volte mi capita spessissimo, in 25 anni è una delle cose che di lavoro a scuola e una da psicologo, è una delle cose che mi è capitata di più di sentirmi dire, ma certo che quando fai educazione all'aperto i ragazzi sono diversi perché fanno... E dico: scusami, fammi capire, tu ci avete di fronte un ragazzo che conosci solo per metà, che conosci solo per la sua capacità di stare seduto al banco e di rispettare un contenitore e un format che è quello scolastico convenzionale? Io mica ti dico che devi utilizzare per forza l'educazione all'aperto un'altra strategia, ma devi conoscere come è fatto tutto per intero questo benedetto ragazzino di cui ti dovresti occupare se ci capissimo su che cosa serve la scuola. E qui apro una provocazione. In una intervista molto bella a una delle coordinatrici dell'equipe del Minotauro, dell'equipe clinica del Minotauro, sulla strage che il 17enne ha compiuto pochi giorni fa, lei che è anche autrice di un libro che si intitola Ragazzi Violenti, risponde alla domanda: ma quindi come sono le famiglie di questi ragazzi violenti? Presenti, accudenti, interessate, montessoriane, fanno tutto quello che serve, ma quando il ragazzino arriva alla preadolescenza non capiscono che è cambiato tutto e che quel ragazzino le manderà al diavolo, si dovrà costruire un'identità di vario genere, eccetera, eccetera, eccetera. E quel ragazzino, nella stragrande maggioranza dei casi, non riuscirà a dire determinate cose al genitore perché sono indicibili per il ragazzino nei confronti del genitore e inaccettabili per il genitore, che li rifiuterà, tant'è che la prima risposta di un genitore quando gli dite una cosa sul figlio è: non può essere che è stato mio figlio, nella stragrande maggioranza dei casi, parlando di adolescenti un po' antisociali. E la provocazione è: basterebbe la parola, ma veramente, cioè, perché quello che succede, e questo vale anche per l'insegnante, perché l'insegnante, se è andato tutto bene, viene interiorizzato dal ragazzino come fosse il genitore in termini di indicibilità dei suoi pensieri, delle sue angosce, delle sue paure. Poi lo so che ci sono degli insegnanti che riescono a farli parlare. Sarebbe bellissimo, questa è la provocazione, creare modi per cui bambine e bambini ancora, ma perché è diverso, loro ci riescono a parlare, ragazze e ragazzi possano parlare dei pensieri che li attraversano, perché laddove non li parlano li agiscono, e questo è un problema. Gli ultimi dati UNICEF sono 17% il disagio mentale. Mi taccio, mi serviva un'ora. C'è Simona che ha già parlato, allora Nicoletta. Vorrei rispondere alla questione su quali punti è più in pericolo la democrazia nella scuola. Allora, vi riporto alcune riflessioni che abbiamo condiviso ieri nel coordinamento nazionale del Movimento di Cooperazione Educativa, l'MCE. E pensavamo a tre aspetti che si stanno perdendo o che perdono significato nella scuola in questo momento. Sono i decreti delegati, l'autonomia, che vuole essere rivista come autonomia differenziata, e le indicazioni nazionali. Allora, le indicazioni nazionali ci stanno particolarmente a cuore, perché ci sono ancora, la gran parte degli insegnanti pensano ancora o si trincerano dietro il fatto che esistono i programmi. I programmi non esistono più dal 2012, non so se i genitori ne hanno sentito parlare di questo fatto, ma il problema è che gli insegnanti non conoscono le indicazioni nazionali, che chi forma gli insegnanti non si preoccupa di presentare le indicazioni nazionali, forse non conosce neanche i nuovi scenari del 2018, cioè l'aggiornamento delle indicazioni nazionali, che diciamo in questo consesso penso ci piacciono abbastanza, consentono, anzi ci danno proprio forza rispetto a quello che noi pensiamo della scuola. Perché appunto invece di avere l'indice degli argomenti ci sono delle riflessioni su quello che ai vari livelli è possibile, interessante, utile fare e non solo sapere. Quindi parliamo del corpo intero, dello spazio, delle persone che si muovono. E allora abbiamo pensato di ripubblicare le indicazioni nazionali con una nostra premessa, per dire su che cosa stanno mettendo le mani molto rapidamente questo governo, che cosa rischiamo di perdere. E le vogliamo ripubblicare proprio per diffonderle. E poi accanto a questo, e totalmente legato, loro hanno già cominciato a cambiare i libri di testo. C'è un libro di testo della scuola media, in cui in terza media, gruppo Mondadori, La resistenza non è più nel libro di testo, è un fascicolo che si può comprare a parte, se si vuole, ma nel libro di testo non si parla di resistenza. Allora, questo, diciamo, è un segnale. In India, diciamo, per dire i paesi dove il guaio è già presente da qualche anno, Gandhi non è più presente nei libri di storia, la rivoluzione non violenta non esiste, il Taj Mahal non è più un monumento nazionale. In Stati Uniti, vabbè, non si può parlare di Darwin, non si può parlare forse neanche più della rivoluzione copernicana, non lo so. E quindi abbiamo deciso molto concretamente di aprire un osservatorio sui libri di testo, quindi chiunque fosse interessato a collaborare e a guardarli con maggiore attenzione, a vedere che cosa cambia in tutti i libri di testo, dalle scienze alla letteratura, alla storia, alla filosofia, eccetera, e può fare riferimento a me, lasciarmi il suo riferimento. Comunque, io sono Nicoletta Lanciano, uniroma1.it. E queste due preoccupazioni, quindi rilanciare, riparlare nelle nostre scuole a tutti i livelli delle indicazioni nazionali e fare attenzione, noi siamo per i materiali alternativi, ma laddove vengono presi i libri di testo, fare attenzione a quello che c'è dentro. La signora col ventaglio. Non so come dirlo da altrimenti. Io sono Valentina e sono un'insegnante di liceo e diciamo che anche la mia attività di docente è un'attività che si svolge un po' dentro e un po' fuori scuola, perché sono anche vicepresidente di un'associazione culturale che lavora nei territori periferici, insomma, e però non era questo che volevo dire, era solo per presentarmi. Io, partendo da quelle parole che insomma sono state scritte lì, ribalterei un po' il discorso, nel senso che mi ricollego a quello che sta dicendo Loris poco fa, e mi piacerebbe che la parola che fosse messa in cima, cioè quella accanto a democrazia, fosse proprio la parola benessere, cioè stare bene. Stare bene, secondo me, a che serve la scuola? Per rispondere alla domanda, la scuola è un osservatorio, un luogo privilegiato, perché insomma mette tante soggettività insieme, tante differenze insieme, e diciamo ci si augura che da questo melting pot poi insomma si crei del valore, no? Del valore aggiunto, e quindi quello che io chiamo benessere. Secondo me la parola benessere è una parola che però dentro la scuola dovrebbe essere pervasiva, perché il benessere di chi studia non è separato da quello di chi nella scuola ci lavora. E il problema della scuola, secondo me, è proprio il fatto che con l'autonomia la parola diciamo segmentazione, frammentazione, differenziazione e quindi pure marginalità, alienazione sono diventate un po' le parole dominanti, no? Io quest'estate ho letto un bellissimo libro di Stefano Mancuso, che è un botanico, che si chiama La tribù degli alberi, che è un libro che insomma consiglio, perché a mio avviso in questo, diciamo, questo romanzo, che è un romanzo anche scritto da un signore, insomma, da uno scienziato, ma evidentemente anche un uomo grande, insomma un po' grande d'età, quindi è scritto con un linguaggio che è un linguaggio di insomma un signore grande. Ci sono due parole che chiariscono bene un concetto che dovrebbe essere proprio alla base della scuola, cioè il concetto di cura, come si stava dicendo prima, come diceva prima anche Giulia insomma, nel suo intervento. Queste parole sono due e sono interdipendenza e interconnessione. Cioè la scuola dovrebbe essere un luogo in cui il concetto di cura è un concetto, cioè diventa e viene proprio sperimentato, agito come un concetto collettivo, che è un po' quello che si diceva prima, cioè noi dentro la scuola studiamo, poi fuori dalla scuola, diciamo, cambiamo la realtà. Allora, il problema è, diciamo, questa questione, però non si può, diciamo, affrontare se non si affronta l'isolamento in cui qualsiasi, diciamo, persona agisce attraverso la scuola, vive, a partire dal tema della valutazione, che è un tema, diciamo, che riguarda il singolo o la singola studente, a partire, diciamo, dalla progettualità, che spesso è una progettualità solitaria, e, ma soprattutto, cioè, vi voglio fare un esempio veramente facile: il costo del lavoro del docente nella scuola. Una progettualità che viene, diciamo, sviluppata attraverso quello che si chiamava FIS, cioè il fondo di istituto, c'è un costo orario che è di circa 19 euro lordi l'ora. La progettualità che oggi si chiede alla scuola, quella che viene realizzata con i fondi del PNRR, ha un costo orario di circa 50 o a volte anche 70 euro l'ora. Allora, questa questione non è una questione marginale, è una questione di sostanza, perché quello che vorrei io all'interno della scuola è che si ricreasse una, diciamo, coscienza sindacale. Noi siamo proprio all'analfabetismo sindacale all'interno del mondo della scuola, e questo è un tema che non riguarda solo chi lavora nella scuola, ma è un tema di carattere sociale, è una questione civile, come per esempio la questione del precariato, no? Che è un tema che dovrebbe riguardare tutti, sia i lavoratori della scuola, sia i cittadini, i genitori. Ecco, io ho finito, basta. Barbara. Ciao, io sono Barbara, sono un'insegnante, una maestra di scuola elementare e, che ha insegnato per molti anni nella scuola dell'infanzia, e un po', sono molto molto d'accordo con Valentina, con l'intervento che mi ha preceduto tantissimo, perché proprio per rispondere alla domanda a che serve la scuola è un luogo che consente per la sua specificità di spazio e di tempo di creare appunto una situazione nella quale si possa stare meglio che non fuori, che è il motivo per cui ho scelto di insegnare, proprio perché nella scuola c'era la possibilità di creare una comunità basata su dei principi e su delle pratiche che fosse un posto migliore dove stare meglio rispetto a fuori. Ora, questa cosa è molto più facile da mettere in pratica nei livelli di scuola più, per, più giovani, diciamo da 0-6 in poi, poi più si va avanti con l'età e più è una cosa difficile da realizzare, mi rendo conto, anche perché tutti gli aspetti che riguardano lo studio della pedagogia, delle metodologie, della creazione del contesto, di come strutturare gli spazi, sono cose che non sempre vengono prese in nella dovuta considerazione nei gradi di scuola più alti. E proprio per questo io volevo riportare un po' così in auge una cosa che tanti anni che non sento dire, alla quale ero molto affezionata quando andavo nelle assemblee, perché insegno da tantissimi anni, e che è quella del ruolo unico. E secondo me il ruolo unico è una cosa di grandissima importanza, non soltanto dal punto di vista proprio fattuale, economico, di diritti, ma proprio dal punto di vista politico e culturale, perché se non si ricrea di nuovo, cioè forse si era cominciata a creare ma poi subito è fallito questo tentativo, se non si prova a creare un legame forte tra tutti gli ordini di scuola che parta da noi e dalla condivisione appunto delle pratiche, delle metodiche, e anche sulla conoscenza del lavoro che viene fatto in tutti gli ordini di scuola, delle specificità, della ricchezza, no? Perché un insegnante di scuola dell'infanzia ha moltissimo da insegnare, in una classe di liceo, tantissimo, cioè proprio secondo me, ecco, questa ricchezza e questa preziosità della specificità del lavoro va assolutamente recuperata. E a questo proposito io volevo, poi per non parlare appunto delle ricadute sul concetto della valutazione eccetera, volevo anche ricordare che comunque nella scuola italiana è stato così, è avvenuto un omicidio, che è quello della scuola primaria, perché la scuola primaria è stata assassinata in questi anni, e per logiche puramente economiche, e questa cosa è passata abbastanza inosservata, ecco. Secondo me su questo, su come sono cambiate le condizioni di vita appunto nelle scuole primarie dovute alla contrazione degli organici, all'abolizione, alla cancellazione di fatto delle contemporaneità e quindi alla mancanza di possibilità di fare progettualità diverse eccetera, questa cosa secondo me va sottolineata e va esaminata un po' meglio da parte di tutti. Allora, io mi chiamo Cecilia Delia, non faccio parte del mondo della scuola, però sono, non sono né un'insegnante né più una madre di studenti, però da 2 anni sono una senatrice e sto in commissione 7ª. E, quindi vista da lì, sono una senatrice del PD, e, vista da lì quello che ho visto in questi 2 anni è l'avanzare di un'idea molto precisa. Intanto politiche contro una generazione, cioè di fondo c'è un'idea che i ragazzi, le ragazze, i bambini e i bambini sono cattivi, cioè non so dirla diversamente, cioè vanno educati, dal decreto rave a, no, dell'ecoterrorismo fino poi ai disegni di legge sulla scuola che noi abbiamo discusso. È un'idea molto forte, è un'idea revanchista rispetto al 68, cioè proprio viene detta ancora, proprio, se voi andate a vedere, non è bellissimo, però il dibattito parlamentare sul, appunto, per esempio sul disegno di legge sulla valutazione, sono, gli interventi dei parlamentari di maggioranza sono così. Ed è un'idea che va avanti anche in forza del fatto che sono pochi i bambini e le bambine, i ragazzi e i ragazzi. Cioè, secondo me noi sottovalutiamo quanto questo sia pesante per chi oggi è un bambino e una bambina, un ragazzo e una ragazza. Cioè, io sono nata negli anni 60 e anzi, cioè, proprio io penso che ci sia una percezione loro e anche una percezione delle altre generazioni proprio di irrilevanza rispetto. Comunque. E questa è una cosa che appunto io ho visto e a me sembra che di contro, al di là adesso degli errori fatti, cioè vi do per scontato, sono qua, cioè non è, no, di cose che abbiamo sbagliato, soldi che non sono stati investiti, riforme che avremmo fatto diversamente, non c'è una idea, appunto non a caso un genitore diceva, se poi diciamo qual è la nostra idea di scuola, probabilmente ci dividiamo, cioè non c'è dall'altro lato chiarezza su che cosa significa per noi scuola popolare, democratica, pubblica, a cosa serve la scuola, mi verrebbe di dire a rimuovere gli ostacoli, cioè magari una cosa, però per me la scuola serve a rimuovere gli ostacoli, c'ha questa missione costituzionale. Questa cosa la diciamo a dire, la diciamo, sto parlando a me più che a voi, sto parlando a chi, ha un ruolo istituzionale, a chi chiaramente, facilmente, senza usare tutti gli acronimi, cioè in modo che diventi popolare, come noi diciamo, e perché è importante che la scuola sia questo. Io penso che questa sia un po' la controoffensiva di cui abbiamo bisogno e di cui io sento il bisogno. Io ho usato le cose di Giulia Dazzi, le cose di Corsini, magari vi ho anche storpiato, non lo so, per fare le dichiarazioni di voto contro il voto in condotta, contro il reato contro i professori, perché l'autorevolezza dei professori è che adesso c'è un nuovo reato. Quindi io vedo dall'altro lato una chiara avanzata di un'idea, sì, autoritaria, che risponde a un bisogno di alcune famiglie di avere le gerarchie, cioè perché tutta la vicenda del voto è stata, se no i genitori non capiscono, cioè se il figlio è secondo, è terzo, è quarto, e io penso che a quel livello e con quella pregnanza di centralità per la democrazia, ma qui appunto vengo a assumere, perché noi siamo, abbiamo votato 69 decreti, 69 decreti significa 3-4 decreti al mese, cioè la democrazia non è che hanno iniziato loro, però loro sono un governo politico, rivendicano questo, dovrebbero, no, avere diciamo un'altra modalità. Vabbè, mi fermo, credo di aver esaurito il minuto, però penso che va fatta una cosa a questo livello di domande fondamentali, cioè potrebbe essere proprio una cosa radicale in questo senso. Grazie, io sono Barbara Centrone e ho scritto delle cose che leggerò per evitare di perdere, di prendere e di perdere troppo tempo. E parlo in qualità di insegnante specializzata sul sostegno di scuola primaria, in qualità di attivista, in qualità di persona disabile e queer, in qualità di persona che sta facendo il dottorato in pedagogia. Per rispondere alla domanda, no, quindi la scuola per chi è la scuola, cioè qual è il ruolo della scuola, che cosa significa scuola democratica, penso che siamo tutte d'accordo sul fatto che la scuola democratica è una scuola che riconosce, rispetta le differenze in maniera tale che rimangano semplicemente differenze e non si traducono in diseguaglianze sociali. Quindi la scuola ha un'enorme responsabilità soprattutto nei confronti di coloro che sono o saranno in futuro ai margini. Quindi la scuola deve poter essere un dispositivo di equità e di giustizia sociale e questo sappiamo che non accade. Non accade per tantissime ragioni e non accade ogni volta che i ruoli di genere nei testi sono rimarcati, ogni volta che non facciamo educazione al consenso sin dai 3 anni, ogni volta che non facciamo rappresentazioni, ogni volta che cancelliamo il background e le caratteristiche identitarie di autori, degli autrici, artiste e artisti, ogni volta che la letteratura del Novecento annovera solo letterati uomini, ogni volta che nella storia e nella scienza spariscono tutte le soggettività non bianche, tutte le soggettività queer, ogni volta che parliamo di espansione e non di colonialismo, di pulizia etnica, ogni volta che, vabbè, un conto è l'arte, l'opera, un altro conto è l'artista, ogni volta che parliamo di scoperta dell'America, perché noi siamo bianchi quindi l'abbiamo scoperta, ogni volta che cancelliamo parti di storia di alcune comunità, che non ne parliamo proprio, ogni volta che parliamo e inseguiamo la meritocrazia che sembra debba piacerci per forza e ogni volta che non modifichiamo l'ambiente e pretendiamo che alla fine però, cioè, lo studente si potrebbe pure un attimo adattare, no? Nel senso, ste luci non mi sembrano tanto alte, non stiamo facendo tanto chiasso, mo devi per forza andare in sovraccarico, regolati. Ogni volta che non facciamo un lavoro di riflessione sul nostro posizionamento e sulle responsabilità che abbiamo in quanto portatori di uno sguardo, che inevitabilmente è uno sguardo privilegiato, innanzitutto perché siamo insegnanti, quindi all'interno di una classe abbiamo un potere che gli studenti davanti a noi, le studentesse davanti a noi non hanno. E in più è uno sguardo che inevitabilmente, più o meno direttamente, più o meno consapevolmente, costruiamo attivamente ed è uno sguardo molto spesso eterocis normato, mononormato, xenofobo, razzista, bianco, colonialista, grassofobico, abilista, nel contesto italiano anche molto antiziganista. Spesso quando si parla di scuola democratica si discute, no, di come far raggiungere il successo formativo a tutti, quindi come far sì che il background, il fatto di non avere un privilegio sociale, non sia d'ostacolo al raggiungimento di determinati obiettivi. Non è abbastanza modificare la didattica, gli approcci, cercare una collaborazione con il territorio, va fatto, ma non è abbastanza, perché una scuola democratica è una scuola dove ognuno, ogni soggettività deve poter essere messa nelle condizioni di sapere chi è. E questa cosa non si può realizzare se non facciamo un'educazione socio-affettiva, relazionale e sessuale nelle scuole, perché se non è a scuola che imparo chi sono, chi posso essere, se non è, non è la scuola che mi dà delle parole in cui io posso identificarmi, che io, di cui io mi posso appropriare e di cui posso, mi posso liberare una volta che supero la necessità di avere delle etichette identitarie, io dove la imparo questa cosa? Sto conducendo una ricerca sulle persone trans e l'accademia, e un'altissima percentuale di persone trans non conclude gli studi, e quindi non lo chiamiamo concludere gli studi, non accede al titolo della laurea o non si iscrive proprio per colpa della transfobia, e spesso per colpa della transfobia e dell'invisibilizzazione che subiscono a scuola, nella scuola secondaria. E quindi c'è una larga parte della popolazione che non ha accesso a determinati tipi di lavoro e quindi a determinati tipi di spazi. Ed è una cosa che, di cui non si parla. Ci sono comunità, parti di comunità e persone che sono all'intersezione di varie caratteristiche per le quali sono discriminate, che sono completamente escluse dal discorso pedagogico e dal dibattito pedagogico, perché continuiamo a credere che parlare di certe cose sia troppo presto, quando in realtà abbiamo noi la responsabilità in classe di dare alle persone gli strumenti per capire chi sono, per chiedere aiuto in caso di abusi. Cioè, si parte dalla prevenzione, no, degli abusi, della pedofilia, a un'educazione che permetta di avere consapevolezza del proprio corpo, che il dolore non è normale, di come affrontare le relazioni. Se non è la scuola il dispositivo attraverso cui poter uscire e sapere che, qual è il mondo fuori, cioè non devo sapere solo chi sono, devo sapere anche cosa mi aspetta lì fuori e avere degli strumenti di sopravvivenza intanto e poi di lotta per cambiare le cose. Quindi, per rispondere alla domanda, questa è la mia idea di scuola. Buonasera, sono Luigi, insegnante di scuola primaria. Non pensavo di intervenire, poi ci sono stati un paio di interventi delle due colleghe che parlavano di analfabetismo sindacale e di assassini della scuola primaria, che mi hanno così solleticato alcune cose che pensavo importanti. Mi piace come metodo la cosa della critica, il complimento e l'invito. Quindi la prima critica che faccio è a me stesso e all'aspettativa che avevo venendo qui oggi, nel senso che l'aspettativa è: inizia l'anno scolastico, mi ritrovo in classe sempre le solite cose, il numero di alunni per classe è molto alto, il collega di sostegno che cambia ogni anno, la scuola rotta, non tutti i sostegni richiesti che vengono accettati, eccetera eccetera. Quindi io la mia aspettativa era, è quella di ok, adesso usciamo da qua, facciamo la proposta e la protesta, come diceva lui prima. Ovviamente questo non è una sede sindacale. In una sede sindacale ci si può aspettare di organizzare momenti così anche di contestazione, anche di protesta e così via. Quindi faccio background e passo al complimento. Il complimento è a chi all'inizio dell'anno scolastico pensa comunque di organizzare incontri di confronto, con la prospettiva che poi possono, ecco, c'è la mailing list, ci sono eventi successivi, eccetera, che poi possono diventare anche una messa in discussione anche concreta di ciò che vediamo e viviamo. L'invito è, lo rivolgo qui innanzitutto a me stesso, a non accettare come normale appunto quello che vedevamo prima. Cioè, quando parliamo di precariato, quando parliamo di colleghi di sostegno che cambiano ogni anno, che non c'è continuità didattica, eccetera, il rischio, per me, io sto da 20 anni nella scuola primaria, il rischio è quello di abituarsi e di avere magari delle sedi come queste, oppure le persone che, con cui ti senti più vicino, vicina, con cui ti sfoghi, eccetera, e poi a collegio docenti o nella sede sindacale, eccetera, invece accettare tutto come normale, come ormai va così, che posso fare io, eccetera. L'invito quindi è innanzitutto a non accettarlo come normale e poi a mobilitarsi quanto più possibile. Vi parlo, vabbè, di una, semplicemente del mio esempio personale, cioè dell'esempio personale della mia classe. È una classe normalissima di terza elementare, 25 alunni in classe, un alunno autistico grave, l'insegnante di sostegno che cambia ogni anno, e ti devi poi sentire il senso di colpa per tutte le cose belle che potresti e vorresti fare, eccetera, e poi dici, ah, dovrei fare questo, mi devo formare, devo leggere il libro, eccetera, e quindi lo fai di notte, lo fai facendo i corsi di formazione a pagamento, eccetera, eccetera, e poi arrivi in classe e non sempre ce la fai. E quindi niente, l'invito è quello di non accettare tutto ciò come normale e a provare a mobilitarsi a fare qualcosa. C'era Monica, che però non so dove sia. Monica. Allora, io mi chiamo Monica, arrivo penso per ultima, quindi credo che ci sia molta stanchezza, sarò brevissima. Volevo intanto ringraziare per questa assemblea, credo che sarà un anno, appunto, come è stato detto, estremamente difficile. Partiamo con delle linee guida che sono incommentabili. Abbiamo un ministro che è comunque incommentabile e oltre che un governo, però ecco, la mia ultima assemblea con il gruppo di lavoro che sta provando a tirare su quella che spero che sia un po' anche la prosecuzione di questa assemblea, che è la rete Educare le Differenze, che si dà appuntamento a Roma il 28 e 29 settembre. L'altro giorno parlavamo di un gruppo, di una tavola rotonda sull'autotutela del corpo insegnante, no? Perché sappiamo quello che succede, e abbiamo difficoltà anche a trovare docenti che volessero esporsi con il proprio viso per intervenire. Quindi questo è insomma quello che si sta respirando in questi giorni a scuola. Abbiamo dirigenti scolastici che hanno cominciato a chiedere: ma cosa facciamo per rispondere alle linee guida prima ancora che fossero firmate, quando teoricamente c'era anche, diciamo, un parere non favorevole, no? Di fronte a questo, appunto, quello che possiamo provare a fare ognuno nei propri mondi, perché sono poi realtà diverse, è cercare di allearci. Questa edizione di Educare le Differenze, che è la decima, quindi ci teniamo particolarmente, torna a Roma, appunto, da dove è nata. E è un'edizione che abbiamo intitolato Le lotte che fanno scuola, perché uno degli aggettivi che manca e che aggiungerei è una scuola intersezionale, lo dicevi prima tu, giusto, ma intersezionale non solo nelle esperienze, nelle soggettività, ma anche nelle lotte. Educare le Differenze quest'anno sarà a Roma il 28-29 settembre. Il 28 è la giornata internazionale per l'aborto, ci sarà la manifestazione, invitiamo a venire alla nostra assemblea e poi di confluire insieme alla manifestazione, perché l'educazione sentimentale e poi l'educazione al consenso e anche appunto lotta per un aborto sicuro. Allora, io mi chiamo Flora, insegno in un istituto tecnico professionale per l'agricoltura che è anche un alberghiero, cioè la cui sede centrale è un alberghiero a Monte Mario. Allora, in realtà tutti gli interventi mi stimolerebbero a una risposta lunghissima, per cui forse la cosa che mi va di dire sono le parole che mi voglio portare dietro. Una è sicuramente margine, perché quella cosa che dicevi tu sul ghetto dell'istituto, dell'alberghiero, in realtà nasconde, secondo me, una nocciolo di libertà grandissima per noi che insegniamo, un nocciolo di libertà e, ahimè, di sperimentazione, perché invece secondo me la sperimentazione ci vuole, perché non sperimentare vuol dire rimanere attaccati a delle cose che non sappiamo neanche più bene che cosa sono, perché comunque cambia, sotto i nostri occhi cambia tutto. Quindi mi viene da pensare che il concetto di marginalità è importantissimo il concetto di mescolanza tra, che diceva l'altra collega, tra i vari ordini di scuole, per esempio l'educazione dai 0-6, Rodari, cioè tutti i maestri con cui noi abbiamo avuto a che fare, sono fonte di ispirazione anche per gli ordini più alti di scuola, gli esercizi di scrittura, tutto. Quindi noi abbiamo un grosso potere con la nostra comunicazione, secondo me, cioè mettendoci a parlare insieme noi possiamo scatenare una forza grande. Forse manca il conflitto, ecco, in ognuno dei nostri interventi forse sarebbe bene che qualcuno si alzasse e dicesse: ma che cazzo stai dicendo, scusatemi, non è così, perché quello è la cosa che c'è anche in classe tantissimo, ed è l'allenamento che noi che stiamo da una parte dobbiamo fare per reggere tutto quello che i ragazzi ci mettono davanti, senza soccombere dal punto di vista personale, pensando che non è un punto di vista personale ma è politico, cioè personale nella misura più alta, secondo me. E comunque grazie di questa assemblea. Abbiamo finito gli interventi, ma dobbiamo tenere ancora 15 minuti, mi hanno detto. Cioè, siete obbligati a prendere parola, insomma. Obbligate. No, io non me la prendo volentieri, diciamo, magari appunto la cura di chi non è abituato a prendere la parola, e quindi insomma magari stiamo anche ad aspettare, perché poi non è facile prendere la parola pubblicamente in un'assemblea. Grazie, e io sono Francesco, sono un insegnante di scuola secondaria, insegno storia e filosofia in un liceo di provincia, sono un capo scout, un attivista in un circolare, ci sono un po' di cose che hanno a che fare con questo mondo e che sono diverse e cercano di parlare tra di loro. Volevo provare a fare due cose nel poco tempo che ho a disposizione. Una è aggiungere un tema, ed è il tema dell'aspetto, diciamo, giuridico legato alla pratica di vita di un insegnante. Tutte quelle cose che hanno a che fare un po' con le sentenze che negli anni hanno modificato il nostro modo di stare a scuola, un po' soprattutto con la paura che noi e i nostri dirigenti troppo spesso ne abbiamo. Parlo di ricorsi rispetto alla valutazione, parlo di questioni che riguardano la sicurezza e le norme sulla sicurezza. Non so, io penso che una scuola secondaria, chiunque insegni una scuola secondaria abbia da alcuni anni l'impressione che gli studenti abbiano non solo molta meno libertà di movimento, ma anche che questo contribuisca a impedirgli di avere una dimensione di autonomia e di adultità, no? Credo che tutti e tutte siamo abituati a fare i conti con la sorveglianza durante la ricreazione, le classi che non possono uscire nel cambio, tutte queste cose qui. Io credo che queste cose, questi aspetti qui vadano messi a tema. Esiste in questo momento un'attenzione sulla scuola, e credo soprattutto sulla scuola secondaria, che è un'attenzione per lo più di tipo punitivo, in due sensi. Noi siamo sempre più abituati a operare un controllo e una punizione sui nostri studenti e sulle nostre studentesse, e noi stessi siamo oggetto di un continuo controllo e di un continuo timore di punizione. Credo che questa sia una cosa che vada messa a tema. Siccome questo è una questione di grande complessità, mi induce a fare una seconda cosa, cioè provare a riprendere quel discorso della dimensione politica delle questioni che poniamo, e politico in vari sensi, uno dei sensi è quello della strategia. Che strategia politica una realtà come questa, una serie di realtà come quelle che si riuniscono qui, può mettere in campo? Io ho l'impressione che il pomeriggio di oggi, ma tantissime altre esperienze che tutte e tutti i studenti abbiamo fatto, ci dicano che esiste nella scuola chi a vario titolo, insegnante, studente, studentessa, genitore, eccetera, pensa, attua, cerca di attuare, ricerca, se non vogliamo dire sperimenta, però ricerca una scuola democratica. Ce ne sono tantissimi di esempi. Come questi esempi diventano possibilità di fare un conflitto politico che può vincere qualcosa? A quale livello dobbiamo operare? Dobbiamo operare a livello micro, nelle nostre scuole, provare a fare potenzialità interna? Dobbiamo operare a livello macro? Dobbiamo provare a costruire un movimento politico nazionale sulla scuola? Io penso che questi temi siano temi e questioni e domande alte, ma che non possiamo non porceli. Altrimenti rischiamo di fare una cosa molto bella, cioè confrontarci insieme all'inizio di un anno scolastico e iniziando con una boccata di aria fresca, che però rischia di rimanere un po' più a se stessa. Ovviamente non ho delle risposte, però credo che se vogliamo provare a ragionare di questi temi dobbiamo farlo anche in una prospettiva di rivendicazione politica in qualche senso. Vi ringrazio. In Corner sono Patrizia, di un'associazione che chiamiamo Scuola Popolare, per stare al tema che ha posto qui Elena Zizioli e il libro che ha trattato. Una scuola popolare che abita il territorio di Torpignattara di Roma, ma non vi parlo molto dell'associazione, ma delle scuole popolari in generale, per dire due cose brevissimamente. Intanto queste nuove scuole popolari, ben diverse peraltro l'una dall'altra, cercano di fare quell'alleanza di cui parlava anche Monica nel suo intervento. Non sempre facile, sempre difficile, ma l'alleanza che mi sembra importante sottolineare in questo momento, la ricerca di alleanza, di collaborazione, è con la scuola formale. Altrimenti la scuola o le scuole popolari hanno poco da fare, possono svolgere un servizio di supplenza, ahimè, ma non è ciò che ci proponiamo. La cosa importante che a me pare che dobbiamo contribuire per ricostruire quella democrazia a cui si faceva riferimento dall'inizio, un po' tutti a diversi livelli, è provare a dare al territorio, e quindi in questo caso alla città, al territorio dove si abita, per parlare in modo più generale, una zona, più zone franche dal mercato. In una situazione in cui il capitalismo, vado per brevi sintesi naturalmente, onnivoro, rompe anche gli schemi della democrazia scolastica, perché mangia il mercato stesso ogni opportunità di libertà e di uguaglianza all'interno della scuola, io penso che le associazioni o le scuole popolari che fanno queste attività, queste pratiche sociali, debbano davvero dire: sono fuori il mercato. Cerchiamo cioè di non metterci dentro alla competizione dei progetti o del progettificio, perché già quella parte burocratica, scolastica, è diventata insopportabile. La seconda cosa che mi sembra importante è ricominciare a ricostruire l'autonomia dalle istituzioni, non un'indifferenza, ma un'autonomia, perché mi sembra da questo punto di vista che l'altra scuola, cioè la scuola non formale, debba ricostruire tutte le condizioni dell'uguaglianza a partire dalla partecipazione sociale. Punto. Volevo solo richiamare questo. Perché non era una cosa contro la sperimentazione in sé, ma il problema è che si sta sperimentando da 60 anni su cose che ormai sono, come dire, devono essere normalità, non sperimentazione. In questo senso, cioè, io per farmi male mi sono iscritta a Scienze della Formazione, a Media Education, perché è una cosa che... E sto studiando la psicologia dell'apprendimento, sto studiando pedagogia, eccetera. E mi rendo conto che sono 60 anni che certe cose sono date per acquisite, scontate, eppure siamo ancora a sperimentare. Basta con la sperimentazione in questo senso. Rodari, ma perché si deve chiamare sperimentazione? Rodari è Rodari e deve essere nella scuola. Cioè è un discorso, non è contro la sperimentazione, anzi, poi io sono un tecnico, lavoro sul digitale, quindi in realtà quel tipo di sperimentazione è fondamentale e, diciamo, ricordiamoci che inizia la scuola senza lo smartphone a scuola, ricordiamoci anche questa cosa che nessuno l'ha detto. Metto anche questa chicca, insomma, che di cui ce ne sarebbe tanto da parlare. No, scusate, sulla faccenda della sperimentazione è chiaro che io ho l'impressione che ci siano due letture diverse, perché in Italia si è affermata una visione della sperimentazione che consiste nella tendenza a considerare sperimentale ciò che deve essere provvisorio. Ecco, per sperimentazione in realtà dovremmo intendere la nostra attitudine a mettere alla prova dell'esperienza i nostri fini e i nostri mezzi. E credo che l'insegnante di scuola o il docente universitario, se non fa questo, se non è disposto a fare questo, se cioè non ha un atteggiamento sperimentale, è bene che cambi lavoro, cioè c'è poco da fare. Ah, in Italia noi abbiamo preso la valutazione formativa, l'attivismo, l'apprendimento cooperativo, eccetera, eccetera, le abbiamo bollati come sperimentazioni, ovvero come cose che sì, ci proviamo, vediamo se è. No, invece avremmo dovuto fare esattamente il contrario. Quindi io certo sono a favore della sperimentazione, ma intesa in un senso che purtroppo non è stato recepito né da docenti nelle scuole, né dalle istituzioni, né dall'università. Ecco. Voglio solo mi sentite? Volevo solo salutarvi con una provocazione, riallacciandomi a quello che diceva Barbara, che adesso è là fuori, e a quello che diceva, adesso mi sa che è andato via, vabbè. Allora, qui per quanto riguarda l'inclusione, perché io ritorno sempre lì che è una parolaccia, proprio non la sopporto come parola, però ormai c'è, quindi volevo dire che la provocazione è questa, a tutti i miei colleghi e colleghe, la mia provocazione è questa, a tutti, già c'è chi lo fa, però non si sa mai, che chi deve essere incluso non è il bambino o la bambina con disabilità o il bambino e la bambina con un background migratorio, semmai è al contrario, nel senso che si parla sempre di eteronormatività, no? Come se quello fosse sempre il metro di misura, ma siamo noi che dobbiamo imparare a convivere con tutte le diversità presenti a scuola, sia adulti che i piccoli, perché gli adulti non sono pronti a queste diversità, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Mentre i bambini riescono, perché hanno una spontaneità e un adattamento anche molto più diretto di noi. Quindi quello che vi voglio insomma ricordare è che nessuno è normale, perché siamo tutti normali, cioè siamo tutti con ricchi di diversità, e il fatto che io sia una maestra con una disabilità e una maestra con un'origine diversa, ovviamente la rappresentazione conta così tanto che i bambini non hanno problemi nel vedere una persona con una carnagione diversa, una lingua diversa e una situazione fisica diversa. Se ci fossero più insegnanti di origine diversa, più insegnanti con disabilità, e vi assicuro che per un insegnante con disabilità entrare nella scuola è impossibile, è una cosa tremenda, perché spesso sono gli stessi dirigenti che li fanno desistere. Non se ne parla mai, ma io, essendo appunto dentro, lo so quello che succede, perché tanti colleghi e colleghe con disabilità me lo raccontano. A volte non lo dicono neanche di avere una disabilità, soprattutto se non è visibile come la mia. E questo, cioè, teniamolo a mente per quanto riguarda quei bambini e quelle bambine, quei ragazzi e quelle ragazze che hanno difficoltà ad essere inseriti, tra virgolette, a scuola. Ok, allora arrivano le bambine e i bambini, eccoli qui. Eccoci, forse anche un'altra unità. Sì? Anna, vuoi presentare tu un po' come abbiamo lavorato in assemblea? Assolutamente, io rubo la parola ai più piccoli e alle più piccole soltanto per un secondo, perché insomma abbiamo lavorato molto bene e saranno in grado sicuramente loro di raccontarvi un pochino quello che abbiamo fatto. Giusto per darvi una piccola introduzione, ci siamo riuniti anche noi e abbiamo fatto una piccola assemblea perché ci sembrava insomma importante avere anche le voci di chi la scuola la vive quotidianamente, e abbiamo proprio pensato di ragionare un pochino insieme su diversi aspetti della scuola, partendo da cosa ci piace e cosa invece ci piacerebbe cambiare. Diciamo, dopo una lunga discussione tutte insieme, ci siamo divise in due gruppi e abbiamo realizzato due piccole restituzioni grafiche per spiegare un pochino sia l'aspetto più organizzativo degli spazi della scuola, quindi come vorremmo vedere le nostre classi, e anche un pochino per l'altro cartellone abbiamo cercato di ragionare un pochino su chi è e quale dovrebbe essere la comunità che abita la nostra scuola e come si dovrebbero svolgere le lezioni. Quindi io direi che lascio subito la parola ai capogruppo. Chi vuole iniziare dai due gruppi di là? Perfetto. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, noi siamo qui e con molta felicità e volevamo presentarvi il nostro cartellone. Allora, questi sono i nostri maestri, professoressa Coniglio e prof. Polipo. Gli animali domestici. Portare gli animali domestici. Vorremmo una scuola in cui anche chi ha la PhD si possa sentire a suo agio. Scusate, qui ho dimenticato agli animali domestici la conigliioterapia. Comunque, vorremmo iniziare la scuola più tardi per avere un po' di tempo per noi la mattina. Vorremmo delle maestre che vengono da tutto il mondo, così da poter imparare cose nuove. Il prof Ragno e la professoressa Medina. Vorremmo fare anche più lavori di gruppo, anche perché così possiamo aiutarci a vicenda, se qualcuno fa qualcosa in più dell'altro può aiutarlo. Vorremmo anche che non ci fossero i voti, perché è come se fosse un'etichetta, ma soltanto delle spiegazioni, così possiamo capire meglio dove abbiamo sbagliato e non etichettarci soltanto con un stupido numero. Scusate, un'ultima cosa da me. Abbiamo dimenticato di presentarvi la nostra mascotte, la Medusa. Non vorremmo bocciature, soltanto d'estate dei corsi per ricuperare, per capire dove abbiamo sbagliato, così non abbiamo più l'ansia e possiamo mantenere anche le amicizie e la tranquillità. Invece noi facciamo la scuola all'interno, l'esterno e il giardino. L'esterno della scuola lo vogliamo un po' più decorato e carino, invece che tutto solo dipinto di un colore con i disegni. E poi l'esterno della scuola con l'ascensore per i piccoli e i grandi, così non devono fare tutte le scale per arrivare alla loro classe. Poi tutti i bambini hanno il tavolo con altri bambini e fanno i lavori di gruppo per ogni lezione. Poi, se un bambino è tanto stanco, può chiedere alla maestra di andare un attimo a riposarsi in una stanza dove c'è il letto, gli animali e il bagno. Poi, c'è il giardino dove ci sono i canestri e una rete da calcio e una piscina idromassaggio dove si può studiare. Sì. Grazie. Vi ringraziamo per l'attenzione e direi che questa assemblea termina qui oggi. Vi invitiamo a rimanere con noi al macro per Bingologia Radicale. Potete customizzare le vostre cartelle e giocare con noi a questa nuova versione collettiva di Bingo. E lascio la parola a Christian, se magari vuole dire due parole di chiusura. Mi dicono dalla regia che questi cartelloni li manderanno al sindaco. Io farei una brevissima conclusione, soprattutto organizzativa, dell'appendice che c'è stata prima della vera assemblea, che mi sembra che sia quella stata delle bambine e dei bambini. E intanto volevo ringraziare tantissimo di aver speso tutto questo tempo, e mi sembra stato che sia stato un tempo assolutamente di qualità, generoso, di intelligenza e anche di ascolto e di confronto. E mi sono segnato anch'io tantissime cose, questi cartelloni me li porto e cerco in qualche modo in tempi molto brevi di fare un verbale, fotografo anche quei cartelloni dei bambini e delle bambine, perché mi sembra che insomma ci siano tante consonanze. E le andiamo al sindaco? Assolutamente, ho la mail del sindaco e saranno dati al sindaco. Vorrei che il sindaco sia tanto gentile che esaudirebbe i nostri desideri, tranne la prof con il migliore pubblico che ci ha mai visto. Grazie. Realismo, mi sembra tutto, e io le parole che ho segnato, diciamo che forse ci danno una spinta a organizzare una cosa diversa, è conflitto e rivoluzione. Siamo dei conclusi, perché sono dei prossimi consigli di classe con i docenti, ci dobbiamo adattare, poi qui tra di noi riusciamo a essere anche a confrontarci, a fare un conciliaggio docente, stiamo zitti, andiamo a casa frustrati, tutte quelle cose che sono state dette qui poi sembrano marginali, minoritarie, eccetera eccetera. Io penso che per fare la rivoluzione e per fare il conflitto ci voglia organizzazione, insomma non lo penso io, ma insomma da quello che ho imparato, come dire, da Gramsci in poi, mi sembra che questo sia fondamentale. E quindi per preparare una seconda assemblea, questa assemblea è stata fatta veramente in tempi, come dire, approssimati e veloci durante l'estate, quindi ci vuole appunto un'organizzazione, capire se farla di nuovo qui in un altro luogo universitario, prepararla con un ordine del giorno, comunque con dei gruppi più pensati, portare dei documenti eccetera eccetera. Mi piacerebbe che questa cosa chiaramente non ricadesse soltanto sulle persone che hanno dato vita a questa cosa, ma fosse, diciamo, presa in carico un po' da tutti. Quindi io faccio un passaggio puramente organizzativo logistico, cioè faccio un verbale insieme a chi mi vuole dare una mano, anzi se qualcuno, diciamo, dà un po' di disponibilità, e faccio una mailing list. A quel punto lì ragioniamo insieme in tempi ragionevoli, in un paio di mesi, magari in un mese e mezzo, un paio di mesi, di organizzare una bella assemblea. C'è bisogno di un movimento sulla scuola? Sì, se bisogno di sindacalizzazione sì, c'è bisogno di conflitto rispetto alle linee guida dell'educazione civica sì, c'è bisogno di fare veramente un movimento sull'educazione alle differenze con tutte le cose che sono state dette, sì, quindi il 27 e il 28 sono appuntamenti, sono tanti appuntamenti che costellano, c'è bisogno di una didattica che rovesci molte delle sclerosi che esistono nella scuola italiana, sì, allora è chiaro che qui, come dire, abbiamo tutti un'anima molto attiva ed è chiaro che questa attivazione è frustrata se poi non ha questo slancio conflittuale. Io penso che qui oggi siamo un centinaio e io non mi aspettavo tutte queste persone, ma penso che le persone che si vogliono attivare, che vogliono fare conflitto nella scuola sono veramente migliaia, anche perché i nemici, ecco la prima, io al sindaco ci deve dare la risposta, okay. Altrimenti è un vigliacco. Va bene. Possiamo andarcene, io mi sto annoiando a morte. Ce ne andiamo, è giusto così, quindi grazie.